tollerabile, ma sempre quello con il cognato, non è molto successo, un anno. No, un altro mio cognato, io ho la giuguata. Ha fatto bene, lo dovevi ammazzare, lo dovevi anche vedere, mezzo di merda. Sì, già l'ha cazzuttato, se non lo fa mai bene, gli ammazza 30 la macchina. E ha detto, l'unica cosa che mi viene a male è che gli 30 la macchina, mi viene a male, a pigliare le cose, così gli ingannate a faccia. Ma già si l'ha pigliato e poi gli ingannate a faccia. Di che viene, era? Ah? Era fatto di che viene, pezzo di Dio. Ma prima lo facevamo all'ordine al giorno. A mio zio non è curato la macchina più di una volta in occhi. C'era lucidante. Storia. E moto, ma che tutto rubava. Natali. Storia Natalino. Storia Natalino. Sì, ma so cosa non ti guardo. Ha detto vorrei anche tu, vorrei anche tu. Natale. Ma la terza che l'ha conosciuta a Lugugnano. E ti l'ha incazzuttato, il giorno dopo gliel'ho portata io alla Renault a fargli la V, perché lui era di Porto Autore, mi ha cogliato, quindi mi veniva male. L'ho presa io la macchina e gliel'ho portata io giusta. Bacilla, cazzo, ma non è canta niente, biglia bagazzotte, ma non è solo il primo caso, gente che la nece è da amare, mi puro, ma che ti guardi. Io ho visto macchine con quel scotto stracciato perché non ce l'hanno fatta a tunnel dello stereo, l'hanno stracciato un miserabile, veramente miserabile, mi fa vedere una cosa, sì. No, ma è come si dice, veramente gente miserabile. Prima li vendevano 40 euro e tu dici di stereo, il tasto verde costava 11 soldi allora, quello della Philips. Era uno degli stereo migliori che facevano, come può essere adesso l'Alpine, ecco. Il tasto verde era più rinomato che c'era allora. Il Sony era buono, duro. Che modo? Allora la moda era quella, il tasto verde tutti ci avevano. Succava addirittura questa piccola c'era 126 e si è tagliato, siccome non aveva posto per mettere lo stereo, si è tagliato, ha ritagliato la carrozzeria nel cruscotto perché era tutta in ferro, tutta la mela, l'ha tagliata e ci ha messo lo stereo lì e l'ha fatto bene il lavoro, non ci vedeva niente. Meno male, ma con chi se non ne sia però lo stereo, poi mi ha cominciato a fare i primi stereo che non riusciva più e lì già si sono già rassegnati. Sì, se non ti si faceva il cruscotto come hanno fatto quello vicino a casa di mamma, gli hanno saltato un cruscotto completamente. Là non ne curano più, no? Oh, cosa le due lire? Se vai di trovi a due lire, anche dal Pai che costavano, io l'avevo pagato 990.000 lire, me lo ricordo ancora, il mio primo Alpai. Allora costare una cazzata, vai a comprarli, costano con 200 euro, lo comparecchi anche di me. 200 euro, ma che fa tutto, barone. Sì, no, hanno perso il mercato. Lo so, mi viene pagato un poco di macchine intanto, ma che c'è cose, lui ha. Adesso c'è il tablet, ci si attacca la ICI guai, perché quelli costano, poi fa tutto, il tablet è collegato con la centralina, ti fa la roba della macchina, tutto qua. Ti collega al Bluetooth, c'ha il coso, il navigatore, c'è tutto qua. Ah, hanno visto la fotografia, hanno visto già, mamma mia! Ah, chissà che mi ha la lui! Sì! Su sarete la di più, adesso è diventata la metà con la foto. Chi sei caggio buono, è caggio buono a quello, però. È caggio saggio, proprio dal pastore. E anche la salsiccia è quella buona. E di quella spumicata, di quella... Certo, oggi mi hanno una foto di cosa mi vorrei prendere io. Di cosa mi voglio comprare io. Il forno per la pizza. No, a parte quella è un'altra cosa. Quando ho fatto... E io gioco a me. Questo sistema già è da tanti... di anni che lo sogno, da qualche anno. 100 più 100 so. Ora inizio di mappa, 300 watt, 100 più 100, più 100, i satelliti sono così, i satelliti ognuno, quanto è il tubo è più potente, 500 watt. Ma... Senti, ne fa, fatti vibrare la cristalliera, come fa a casa, che vibra tutto quando attacca. Ma questo è un, ma è un sistema diverso, questo è un sistema che... sala fa molta differenza, fare in una sala, in un teatro, tocca un bel, capito? Perché un sistema la reghe si sente molto molto in fondo. Ma sono diverse case sovrapposte, così? Si chiama sistema la reghe, non l'hai mai visto anche quando fa i concertoni, le cose grosse. Così è il mio sistema, questo però è piccolo. Vabbè, là ci sono più sub e più cose. Le teste sono così, sono uno sopra l'altro, così sono. Uguale. Ah, ecco. No, non l'ho mai vista così, la verità è la prima volta, non l'ho mai notata. Ma di solito nei concerti vedo casse enormi, da 1000 watt, da 2000. Quel sistema hanno già. E vabbè, magari il sistema è lo stesso, ma le casse sono più umane, sono enormi. No, quelle sono fatte per un'altra cosa e queste sono fatte per le cose più piccole. Ma ti assicuro che suona, eh? Senza ombra di dubbio. Ma queste casse qua sono fatte per fare tipo karaoke oppure sale, in sale grandi dove ci fanno ricevimenti, queste cose qua. E in casa, cazzo, cosa te ne fai di gas così in mano? Ne vedrai di gas vedi? Non sono grande, non sono grande. No, io volevo un sistema che suonando tutta una trazione, tutta. Queste suona, non è niente da dire, cioè non suono che è fantastico, però quelle là sono un altro mondo. Così, boh. C'è anche il sub sotto, c'è il sub, le casse, lo sai, suono che emanano, suono bello che emanano, è bellissimo. Ma tu le hai già sentite suonare? Sì, questi temi lì so, li conosco, sì. Ma questo tipo di casse qua specifico non l'hai mai sentite? Ma uguale, sì che le ho sentite. Magari a seconda mano le trovi anche di me. No, non portano mica tanto. E più di 600 io. Certo. Ma io me lo prendo l'impianto così. Me lo prendo che andrò a fare un corso in una sala, un salone grande e cosa. Allora canto si intende. E canto bomba. È una cosa micidiale. Ci credo. Ci credo, sono fatte per quello. Anche Emanuela ce li ha le casse così, non so che marca sia, non c'è treppiedi, quando hanno fatto l'inaugurazione di Umar se le ha portate, ci avevano il mixer grande, le casse, tutto quanto, ho fatto un bel lavoro, si sentiva benissimo. C'è prestativo e cose, e le energie poi già suonano, già, cazzo se suonano. Guarda a me a vedere. Ah, è RCF, sì, è vero, adesso che mi ricordo, sì, è RCF, cioè. E in più ha il microfono, quello buono, lo Shure, cioè. Con il microfono c'è lo Shure, che le aveva regalati Samuele al compleanno. Quelle sono belle, sono belli quei microfoni. Aspetta. Certo. Io ho audio design Chrome, ma sono bellissimi quelli che vedo, funzionano bene proprio. Dopo un sistema un po' più ridotto che suonasse molto di più, cioè che suonasse o di più o uguale, cioè che quello è un po' più ridotto in effetti dalla cassa grande, capito? Ehi, ma tu Instagram ce l'hai? Non lo uso già. Non lo usi? No, non lo uso questo Instagram, ma è un bel gente, ma non lo uso. No, io sì, io già lo uso. Oh, vado a vedere più che altro, non metto nulla, ma lo vado a vedere. Cappa. Allora, volevo sempre comprare un sistema del genere, eppure sempre lo sto comprando. Cazzo di niente, cazzo. chiamano proprio per l'anguilla di riccone. Ecco, sa che io gli dico, ascolta, ma trapito io gli dico, perché molte volte non vogliamo vedere tutte quelle cose macrodontiche, capito? Vanno in ville tipo Costa Smeralda, è successo anche da poco, dico trapito io nel pianto. Guarda, fammi il vostro ridinami, morto. E fra poco devo andare che devo portare giù il cane. Vabbè, tu c'è questa passione, lo so. Io purtroppo, siccome molte volte è capitato che non sono dovuti andare anche dai Bertas a farsi impressare un piattino del genere tramite scambio di favori e cose, capito? Perché loro ce l'hanno l'impianto così. Invece gli metto già le carte in tavola, dico guarda, si butta l'affitto io. Vabbè, ma così ti rimbarrani. Me lo devono portare a posto, se no si rubaga. Più che altro stiamo andando bene quando doveva farti le serate, ma poche volte è capitato. Ma non ne ho proprio voglia, perché cazzo non pagano in nulla, dice. Ti credi a fitta di sacchizza? Ah, avvio. Affetta già chi te blu, no? Già, io me lo piglio, poi me la pinto pure, non dico che quella roba me la guardo, che non voglio roba che sia fasciata, ma tu me lo paghi, no, già sono tranquilli già, oppure quando ci vado io in quelle ville lì, dico te lo do io, te lo do l'impianto, mi paghi tutto, dammi, come è il gioco di affitto per ora, dai, 100 euro. Se tu ero qua, se tu non era, mi pago tutto l'impianto. Io non l'avevo mai fatto, perché sono cuginoso, se da questo momento non la tocca nessuno, manco a pagamento. Io so come la tratto io, come la trattano gli altri, non lo so. Luca. Ma lui la parla. Cosa? Ci vado io. Ah, se ci metto un'altra cosa. E Luca? Non parla, no, ha fatto la battuta. Ma sono io a farla, gliela affitto, gliela monto pure io, compreso. Perché molte volte d'estate capita molto, in 10 gasi tutti, imbarrati, ma non voglio dire parolacce. Adesso quando capita che voglio un impianto piccolo. Io prendo l'affitto, facciamo anche io a fare la serata. Se la metti a tu, quando abbiamo fatto l'organizzazione per il compleanno del 100° compleanno di mia figlia al ferroviario. Me lo ricordo. Tutti con le radio eravamo. In 10 minuti te l'avrei fatto ancora più bene. Vabbè, lo so. Ma comunque, diciamo che l'abbiamo fatto bene, dai. Abbiamo selezionato le persone, c'erano tutti gli invitati per nome, ogni volta che entravano si guardava il nome, se erano invitati o no, se no si chiamava Manuela, la radio, tu eri dentro, tu davi le comunicazioni e mangiavi. Che furro, vabbè. Cosa? No, abbiamo ricordato il telefono. Mettete qui, mettete, 18 anni c'è la Manuela, che la vanno a 33. Che cazzo del mio passato? È un bel di anni, sa. Quindi 15 anni. E più? Aspettiva. Così è. È morto, cavolo, vuole arrivare, pare. Sembra, non è così. Io quando va a vedere di Ringo, sicuramente lì, mi dice, che 40 anni fa si fa vedere già. E come ti fosse a mettere un minuto che fare, io me ne ricordo, molti amici meno se ne ricordavo più. Cercate che si fa vedere di 40 anni fa, come ti fosse a mettere un minuto. Io le cose molto lontane me le ricordo bene, capito? A volte però mi succede che a casa devo prendere una cosa, vado alla credenza per prendere la roba e non mi ricordo cosa devo pigliare. Dopo ci penso e non lo ricordo. Ma quella è la vecchiaia, già, è la vecchiaia. Stai diventando vecchio. Natale, meglio invecchiare. Se non è vecchio vuol dire che ti sei rimasto, quindi è meglio invecchiare. sì, infatti, ti insuggerivo, Stata lì, mi dice l'Antonio, com'era Marco, mio cognato? Tanto era. Un armadio era, di chi di quattro stagioni. E non aveva ciappato pure nei macchinari, era trattato un balleno, si sa detto. L'ha ciappato dentro una macchina, con una giussa, ci ha fatto dare la carta d'identità e ha detto, domani se non mi paghi i danni, chiamo i carabinieri, dico guardi, mi hanno offerto la macchina, mi hanno fatto questo danno, ho trovato questa carta d'identità che non è mia. Indagate voi, ce ne domani ci ha fatto ciappare, mi ha dato di no. Cazzo Marco l'aveva denunciato davvero me. Anzi, mi è andata a vedere, non l'ha ammazzato. No, io l'ho accusato, la prima di lei, perché ha detto che in macchina li viene mai a pigliare le cose con i gagnotti. Ma gli ha si abbigliato i gagnotti a dire. Che grosso. Ma io se non ero riuscito a cogliere la pugna a bocca, mi avevo tirato dalla macchina. Che su io di cogliere durante la macchina, uno l'ha giocato via a Rosello. Gli allena bene, la prima di lei. E lei mica se ne accorta, stavo facendo l'ultimo spettacolo dell'Ari, stava ancora quando era aperto. Irene, ma la macchina l'aveva una bella comparata, che si c'è proprio la settimana mi pare. Irene, oh Marco, poi non la macchina tua, sì, guarda che c'è gente dentro, come gente dentro? Ha messo la Iana, ti racconto una giusta, Drake. E così ho fatto a uno in via Rosello, io l'ha giù tirato un freno a mano, giù che tu c'è giusta, prende la macchina sui amatessimi. E cos'è, furato la macchina da lì? No, non mi ammetto cosa mi hai fatto, cazzo, gli ho tirato il freno a mano, in via Rosello mi è successo, è tanto tempo fa, sarà 40 anni fa questa cosa, e lì sono entrato dentro la macchina, gli ho tirato il freno a mano e l'ho picchiato. A me mi hanno raccontato una volta che ne era fatto uno da una moto, e tutta una giussa, ma una giussa, dico che se non mette a pezzare il capo. Ah no, proviamo a ehi, se mi facevano qualcosa, e se no la voce di pinguino, attiramente a pinguino. Pinguino, quello che modula. Sì. Cazzo, dopo gente che può andare a fare dei birra a tubetto. E la fuggente in moto che può andare a fare dei birra a tubetto. In otto mi ha se non l'avevi ammazzato la vita. In piazza Colonna e Mariana, ami. In Chivi. Quello non era il genere di Aquila Dignone, che lui lo chiama Penguino, non lo ricordo ancora, Penguino. Ma mi ha fatto incantato che è andato in via Colonna, in piazza Colonna Mariana. Cazzo, è la giubbuccia umano. Non so che incanti mi erano a mantilendi, quindi mi ha mantenuto e cosa andiamo a fare di via faccia. E cosa ti aveva combinato qui? Mi aveva fatto incazzare, si crepa per il culo cazzo a qualche che non gli faccio conto, invece ho giocato con la giocata voce. Pinguino stava con la figlia di Aquila Dignone. Sì, già lo so, hanno avuto un figlio assieme, mi sembra. Che fine ha fatto di sua Aquila Dignone? Figlia. Ho detto, che fine ha fatto quello lì? Aquila Dignone? Sì. Sì, sarà molto poveraccio. Era beve, era alcolizzato. Sì, beve insuffiata quello. Era giovane, sembrava già vecchio. Sembrava aveva la faccia consumata. Sì, infatti. Beveva vecchia Romagna etichetta nera, un brandy che crea un'atmosfera. Alla fine di rotondo ne avrei comprato che non prendia più nulla. Allora Palluccino te ne faceva, quindi ne approfittava. E allora, cazzo. Ma se no non va via una bozzi, una di agenteso a Rovaracchino che c'è un disco a Rasaggia, credevo era un disco, ma era bella questa canzona brutti. E ho detto, Alessà, che disco è quello che me lo voglio comprare, che cosa disco, io sono da via una bozzi, cantante, Rasaggia, che tu lo dovevi sentire. cantava veramente bene, lui cantava nei palchi, io non lo sapevo, è che per il bene ha dovuto abbandonare, però c'aveva una voce veramente bella, Alessandro. Cantava il Lugodoreso. Ah, ma già cantava! Fabio Isavozzi! Tu lo dovevi sentire! Avevo preso! Sicuramente il Lugodoreso cantava! Il Lugodoro, così! Cantava, io l'ho sentito cantando, credevo che era il disco, e invece era lui cantando! Credevo che era un disco, credevo! E volevo sapere che a disco era, me l'avevo pigliato, mi piaceva la canzone, no? E invece era lui che stava cantando. La famiglia ero d'accordo a Galtellini. C'era Mazzoni e l'altro, un momento, l'altro io ero a rottura di casa. Però chi si giunente con la chitarra, chi si accusava a nonno, non Antonino, la accusava questa musica. Canta chi si ne piazza, io gli odiavo la cavalcata quando c'erano i canti sardi, non ci andavo mai la notte, non ci andavo perché non mi piaceva. Però si è così ben fatto il Lugodoreso, cioè, e si sono ben diso l'altri, chi si beba, mamma mia, chi si proprio sono a dimenticare, e quelli sono i tenori, sono ma chi ti canta lì? So in pochi, so chi si tenore se non la capisci, perché quelli cantano in poesia. 5-5-1-0 un po' di ascolto, l'accusava mio nonno, l'accusava la lì, non se ne puliva più, se ne pisava sempre a, cioè l'umazzano, sempre un bisarrabio, sempre un bisicata a zazza, va via l'uomo di natte con la pacchetta di natte, chiude per dietro di me, cattava la via, giubiato, che c'è lui, che ha messo la radio, l'ha già attaccato, l'ho diventato in diretta, andato con l'uvino, ti ricordi che allora c'erano quei figli che dovevano radio, andavo con lì che avevo deciso il fumo, e che tu, ma la sorte di Eglia, l'altro che ti ha creato, bulla tutta terra. E a chi è tu ricomprendia che si canzoni? Ha compreso e gli piacevano e non è a tutti che piacciono, no? Perché bisogna anche capirle, se tu non sai il dialetto è inutile. Il mio socio non le metteva anche a Natale quella canzone, è nato su bambino, a quelli che piace, però devono essere gente che hanno quel dialetto lì e lo capiscono, se no non la comprendi la canzone, è inutile. E chi c'è la corsicana, Oh, mamma mia, c'aveva una bacchetta nel dietro dove sono io, una bacchetta di nastri c'aveva. Ma la voce è stata potuta recuperare la radio. Ho preso due figli, li ho attaccati da trasformatore che lo messo dirette. Hanno attaccato la spina. Allora non attaccavo neanche il contatore, allora, non era come quelli adesso che non sono vita e tutto, non attaccavo il contatore, e si do un fumo, l'ha accoppiato, e si va come se mi è la scossa. E Antonio ridendo, te l'immagineggi, ecco che l'occhio. Vabbè, l'avevo fatta mio padre nel televisore, perché l'aveva fatta aggiustare, l'aveva fatto ricaricare il tubo cattivi con il televisore, perché c'era scaricato, e gli ha detto non si sa quanto dura, può durare un anno, come può durare anche 5-6 anni, quindi anche domani ci si può rompere di nuovo, perché oramai è vecchio, il tubo cattolico e si può scaricare da un momento all'altro. Io ne ho approfittato perché nel bianco e nero lui non ne voleva comprare a colui, capito? Cosa ho fatto io quando, quando loro erano a letto dopo pranzo? Gli ho smontato il televisore, gli ho staccato il filo. Va a accendere il televisore, mio padre accende il televisore, accende il televisore, non accendeva. E mio padre, ma è partito, il televisore nuovo ci vuole, e adesso non ne vedrò più bianco e nero, solo a colori. E lo compriamo a colori, io non mi paro di vino. Il padre, una volta gli aveva fatto mio padre, che normalmente un bagosa l'ha attaccato un video di rete che ha copiato la televisione. Ok, dai. No, quelle cose sono pericolose anche tu, perché ti puoi prendere la scossa, come tu stai cliccando il pulsante, ti puoi prendere la scossa di brutto, eh. Non l'ha fatto applicare, non riaccendeva, perché era sempre con gli sicosi di chi abbiamo la voce. Ecco, gli girava le cazzole. Non mi scossate la televisione, che io già baitato un po' di giornale a chi d'ora a me. E non voleva vedere un'altra cosa. Guai, a quell'ora doveva esserci il giornale, a quell'ora ci doveva essere così. Ha pigliato la sacca di un filo per la guassa, non mi ammetto. Lui era a casa sua, le regole se le faceva lui. Vabbè, kappa. Prima erano così, mio padre se vedeva film dove c'erano scene d'amore ci spegneva tutto. Bastava un bacio, una cosa, che porcherie che stanno dando, poteva spegnere. Pagabigo. Mio padre era del 1912, Antonio, ti ricordo. Vabbè, chi dirà di tutti, blasfema, cose, devono essere educati. Non guasta mai esserlo, no, era molto puritano, mio padre era così, era fatto così. Era un uomo di chiesa, non gli piaceva vedere certe cose, il televisore doveva trasmettere cose piacevoli, non cose che potevano deturpare la tua mente. E infatti. Cosa? Uno? Era. Nonna era così, ma te sì. La mamma di mamma. E se no non la Michelina, la mamma di papà, mamma mia. Questo non è come il giorno degli anni 80 che guardava le cincin. Io per dire, ho un collega che si fa il bagno con la figlia, io certe cose non le ammetto. Anche da grande mi si facevano il bagno tutti e tre insieme, figlia, moglie e padre. Tutti e tre, dice cosa ci vedi di male? Noi la pensiamo così, che è una cosa naturale e lo facciamo. Devo essere un po' di bucaccione. Eppure ci sono le persone che fanno queste cose, sin da piccola si facevano fare il bagno insieme a loro. Poi, vabbè, secondo me adesso esagerano. E questo ti parlo già di un bel po' di anni che me l'aveva detto. Lui adesso è tanti anni che non lavora più dove ho lavorato io, perché poi aveva trovato un posto di lavoro a guidare le gru, il camion gru, grandi, e se n'era andato da lì. Abbiamo la cincina. A cin cin, ti la metti un bel ormai là. A cin cin, sì. Colpo grosso. E quelle erano le prime cose. Cin cin. Sì, no, una voce, Alessandro, te lo ricordi Alessandro, mio nipote? Oh già. Sì, lo stavano sfottendo, la zia, la mamma. Tutti quanti a questo bambino, no? Perché era un bambino in poche parole. Sciame? Sì. Cazzo, non c'è punto, l'hanno rompito per bere balle. Ci ne parla di pantaloni, ha fatto vedere la bisona a tutti. Roba di bisona e poche le barriandome. A chi che se la legge mi la capirò? La nisto, il papillon cigionito, altri cigionito, Ida. Mi pare l'abbia più mannata la mia. Ed era bambino, figurati. Cazzo, qui se ne è barriato davvero. Alessandro, il piccolo. Questo è proprio il figlio di Angelo. Non lo sai come sono le donne, con la scusa che era bambino lo stavano prendendo per il sedere. C'era la nonna, tutti lì. È vero, Murueo in Chivi, no? Però loro lo stavano provocando. Sinibara di Bantarone l'ha fatto vedere amicità a tutti. Così pareti. Ci vuol dire, ne piazzo. Allora, non impara a prenderlo in giro. Ha fatto bene. E allora? Era un bambino, era piccolino Alessandro, ma cazzo, è poco che è marriato, buzzinoso. Cazzo, hanno fatto come si dice, vai, no, tutte sconvolte erano quando hanno visto la situazione. Così imparano a rompirli di cazzo da chi tu pezzino. Cosa ti posso dire? 12, 13 anni. Non era più grande, era piccolo. Cazzo, ma coraredo. L'abbiato in giro, beh. E l'hanno provocato, Rani. Alla fine non ne budia più, se ne ha parlato il pantalone ed è. E me l'ha fatta vedere pure la nonna, cazzo. Sto ascoltando, Gesù. Io chiudo, dai, che lo potrei giudicare, ci sentiamo, buona continuazione, grazie per il question, ciao, ci sentiamo, ciao, già, alle prossime, adesso andiamo da Laura, cazzo, tu, non andare a provocare niente del genere, peggio Baredi, mi, arrivi dalla vita, ci intendiamo, ciao, Antonio, alle prossime. Bombolino. Vedi a Natali, tu sei ciccarete. No, negativo, non è un ciccarino. Noi rispetto alle iniziative. C'ho il BP, però non ne metto mai. Che ci può togliere qua. Attendeso. Attendeso. E anche io. Ha chiesto una relazione. Gappa gappa. Adesso non posso superarmi. Cosa hai detto tu? Superato, esatto. Questo funziona la gamba, abba e Davide, ci ha fatto la situazione, comuniamo ancora come te la prima, io sono bomba. Beh, lo credo che pompa, ce l'avevo anch'io, quello che mi sei crepato, cazzo, a lui oltre 3 milioni di chiarati, quello che non era originale il mio, dal primo posto tra i senatori, e ancora Salvini, che aveva la scheda di un altro baracchino, deputati a guidare la classifica, perché se no l'avrei già aggiustato, la sua dichiarazione, no, il mio originale, il mio chatto qui con si può stare proprio la scheda quella che ci vuole. No, il mio l'ho comprato nuovo dalla Spagna, con la scusa che ho omologato gli hanno cambiato la scheda e c'aveva la scheda di un Cobra e non c'è manuale di officina per poterlo aggiustare, capito? Era tutto diverso dal vecchio 2009, tutti i ripetti diversi, va via. Abbiamo provato a aggiustarlo e non ci siamo riusciti. Anche il cognato di Sumaoro si è tornato a crepare il modulatore. No, il mio originale. Sembra a te che c'hai l'originale. Io c'avevo quello lì, pensavo che era originale perché io me lo facevo fare a aprirlo. Erano uno da negozio. Questo è Super Tar 3006. 3006 FM. No, il mio era il 3009. Juve, quello con le bande laterali, solo che aveva 40 canali solo ed era omologato, capisci? Lani Giambardo la scheda e Paghizzo che non siamo riusciti a consalli. Sì, noi era bellissimo come apparato. Certo, subentrato nel 2006 l'anno 48. E poi io ho capito una cosa. Non è questo battimento, fa far diventare solo silenzioso. Però se parli tu, parla Gianni. Se solo ce n'è uno un po' più piccolo mi dà fastidio, ma con voi che parlate, anche cosa lo sento bene. Cioè, diventa solo muto. I colpi che prende diventa muto. Capito? Io lo uso molto tranquillamente perché poco fa lo stavo utilizzando la 48. E io ho quello originale, preciso Sirius, mi suono proprio. Sta solo muto, sta, ma non è che non riceve, io ricevo. E come? No, abbattimenti piglia, è logico che ti mandano lo stadio di ricezione in saturazione e prende i colpi. Abbattimenti sono quelli. Quando rimane muto è perché hai un abbattimento, che c'è qualcuno vicino di canale che parla e ti fa abbattimento. Sì, ma fa abbattimento, però se parli tu io ti sento tranquillamente, non ho problemi, capito? Rimane muto, rimane. Io ho capito, dice, mamma mia, non si intende nessuno, non è mica così, no. Se fa abbattimento, però se tu c'hai un segnale buono, io ti ricevo lo stesso, non ho problemi. Cioè io poco fa ho visto che stavo parlando tranquillamente, c'erano gente sul 23, erano vicini pure, ma avevano un segnale sparato. Io non ho problemi, io ricevo bene, a voi vi ricevo benissimo, no. Se rimane solo un tabù, magari se ce n'è uno un po' più piccolo le può dare fastidio, ma con voi non ho problemi. Se uno piccolo te lo annulla l'abbattimento, magari noi perché usciamo con un segnale più forte, 2 watt io uso con le antenne, 2 watt, ma forse le antenne si vedono e si arriva forte, per quello che mi senti bene. Figurati. In molti casi, genitori. È per quello che mi senti bene. Gianni lo stesso è vicino a te, se parla lui lo senti, ma uno che è più piccolo te lo annulla l'abbattimento, capito? A chi diventa muto l'apparecchio? Sì, però si può parlare tranquillamente. Io pensavo peggio, mamma mia, non sento di nulla, bomba, no, invece non è così. I segnali buoni, che sono un po' forti, ma anche a Manuele sento, non ho problemi, cioè, anche se lui vabbè, è vicino a me, quindi non ho problemi, capito? Il problema succede quando, magari se c'è un comune un pochettino più piccolino, ma però va abbastanza bene, alla fine non è così tragica la cosa. Infatti, meno male. Io mi ricordo che c'avevo l'Alan 48 in macchina, c'avevo una comunità che non riesce a proteggere praticamente, che non è in grado, prendevo colpi in macchina, avevo di macchina, arrivavo lì in via Giovanni Pascoli per esempio e sentivo a Gio Maria in tutti i canali, mi faceva proprio abbattimento. Ma se ce n'erano che parlava lì non succedeva niente, lo sentivo in bene lo stesso. Perlomeno a me mi fa questo effetto. E può darsi che se ti faccia così, io diventavo muto, cazzo, nel canale davvero, sentivo gli splatter di Gio Maria, addirittura roba di Goiti, bigliava, mamma mia. Deve essere perché era vicino lui, no? Anche se usciva con 5 watt lo sentivo in tutti i canali, cazzo. Non non è possibile. Del centro della striscia di era un apparecchio che l'incensione era Sciaggia, i militari non si può definire terroristi hanno però in trasmissione ci va bene come apparecchio l'Alan 48 io c'avevo l'originale quello vecchio proprio ce l'avevo in macchina che era omologato cazzo roba di colpi però pigliava si vedeva qualcuno vicino di Canari ah, ah. No, rimane appunto, mi rimane, però se parli di due cose non ho problemi, ti sento bene lo stesso. Rimane solo tutto e basta. Non è un problema. Però ti dico che a me piace molto usarlo. Io come l'ho visto, questo è il mio. Cioè, volevo proprio il modello vecchio, perché il modello vecchio di modulazione. Migliore secondo ed è il migliore, cioè tu poi non lo fai conto, metti il modello nuovo, il modello vecchio, non è un altro mondo, cioè è spaventoso anche come modula, cioè manca paragone, cioè ci sente proprio la differenza, molti lo vogliono, addirittura molti vogliono essere il 68, come te, quello più vecchio ancora. Sì, già lo so, ne aveva uno che era tutto modificato, Gigi Vulcano, manco colpi quello pigliava, perché l'avevano tutto filtrato dentro, e l'aveva fatto uno di Continente, se no non lo potevi usare, no? Cazzo, me l'ha fatto provare, ma lo sa come lo facevo girare io con la voce mia, quell'apparecchio, va via gatto, tutto modificato, colte era. C'aveva l'elicottero, boom boom boom boom, così sentiva, ma là non te la vedi. Sì, però quelli, il modello vecchio rimane il numero uno, il modello vecchio c'ha un modulato allucinante dentro. Non ci sono discussioni. Sì, vabbè, quello di Gigi Vulcano era tutto modificato, c'aveva il doppio modulatore dentro, cazzo, di una via Bobo di Gosa. Gesù, cazzo, quanto ci va forse per l'apparecchio. Ce ne sono, quelli fanno bene. Uno Continentale gliel'aveva fatta Gigi, gli aveva fatto pagare, usare il Rubera Rubini. Però era fatto bene, è fatto bene. Ma anche Gigi me l'ha detto, i miei migliori sono il modello vecchio, spingono forte, hanno una scheda allucinante dentro. Ma quello di Gigi era modificato anche in ricezione, non pigliava colpi quello, era tutto modificato, bisava chissà canto, se lo pigliava in mano, canto bisava, di tutta la roba che era dentro. Figurati se non lo conosco quell'apparecchio. E poi cazzo lui spingeva anche per far funzionare il doppio modulatore che aveva un lineare da 750 nel cavo. Allora si tendia va lontano l'intendia Sì, se vedevi l'antenna che aveva nel camion, cazzo aveva lo stilo grosso un dito, era la 5000 mi sembra si chiamava, questa antenna, c'era lo stilo grosso per tenere il lineare, no? Prima c'aveva il 1200, solo che l'aveva dovuto togliere il 1200 perché c'aveva il cambio elettronico lui, e gli faceva saltare le marce dal camion, e allora ha dovuto prendere quello più piccolo, il 750 ci aveva. Ma prima o poi si danno effettivi quelli tipo lineare lì, Poi a Roma di Linearone, Trento, a Rugamia, quando lo intendi in casino di Montebello. Cazzo quanto ci va forte Gigi Vulcano, c'era tutto l'impianto fatto a regola d'arte. Non ci guidano più i camionetti di adesso perché se li piace un lineare grosso ne esatta in brica anche centralina. Un non ne stanno più usando, no? Usano il telefono adesso, con quel CB Talk. Non ne usano più di baracchino, sono in pochi quelli che ce l'hanno. Isso si usano, e boh. Oggi è il maggior responsabile dei ricordi. Però non è come parlare col baracchino, capito? Prima in propagazione vi sentivi continentali, cazzo, che arrivavano sparati qua. Si mettevano sul canale 45, cazzo, ne facevano tutti i colori. Io vedo un medicamio che non hanno più l'antenna. Sì, può darsi che sia così, che magari in continente ci siano ancora. Ti cambio con 7 antenne. Lo so. Ma è roba che poco avvero, però. Gli aerobri non vi si allinearono i divani. Arrivini sparati, no, che arriviamo. Quando c'era propagazione non ce n'era per nessuno. Cazzo, arrivavano qua, cazzo, sparati. Tutti con bicecco, gatto, tutti modificati di gol, c'erano. Sentiamo un ricordo che facciamo una gara a chi ce la fa migliore, anche. Sì, infatti, qui i ranghi si illuminavano, i gatti, quando trasmettevano diventava tutto rubio l'apparecchio, quando mullava diventava tutto azzurro. Ma tuttora che tuttora la stiamo facendo di questi apparecchi così, ci sono in vendita in giro, ma adesso sicuramente ritornerà tra un po'. E speriamo che si riprenda un po' la situazione, là. Ma tu eri col Bippi, Antù? Ma io ce l'avevo fisso, quando parlando. Un cappa. Sai che Bippi era, di apparecchio modificato. Ma come ero tu, io forse eri tu magari. Mi ha fatto due colpi di Bippi. Sì, può essere, magari non ho fatto bene. Comunque Natalio, fatta caso, la paniera fa meglio. E se te lo sto dicendo, io l'ho fatta con quella gas. Perché scappa a sabere un borro e la poi si inforra e vedrai che esci un burro. Scappa, è molto migliore, riesce a cucinarla meglio dentro pure. Il pollo elettrico è troppo umano, perché quello più io è troppo grande e non va bene Natalino. Cioè quell'altro che invece c'ho la cucinetta, c'ho, il forno rimane più piccolo, la cosa è più bassa, e quindi il calore lo prende tutto diversamente, ma faine che non è scimona. E poi non mi ha fatto male, non mi ha fatto nulla. Ma che l'ha fatta come ti si devi, hai compreso? Esce bene, esce buona pure, più buona di quella che tu compri. Se tu metti l'olio buono, c'è la roba buona come si deve mettere, esce bene, poi va con la salsiccia, con le cipolle, normale, ed esce bene qua, di lusso. E adesso mi voglio prendere più là, mi voglio prendere il forno colorato, e poi la bombola io mica la pago, quindi è ancora meglio. Mi voglio comprare il forno a gas per fare le pizze, me lo metto a casa, me lo metto, se ci posso fare pizze, poi nei pane, tutto. Ma faccio in casa, chiama lo saore. Chiama adulto, ma che è tutto diverso. A me mi hanno detto pure che fa fare la pizza già dal morro villaggio, posso comprare la pietra da frettaglia, quella preparata per quel tipo di forno, ma in chi mi deve buone pure la pizza, mi dice una bomba. Sì, lo so. Diversi 55 tornati. Il forno bello già ce l'avevamo in campagna, cazzo, di quello a legna, amico. Cazzo, di tutto cucinavi. Pizze, fainé, lagarri, scia, cazzo, lagarri. Se lo sai usare il forno a legna è una belva. In campagna del suocero di mio fratello c'avevano il forno a legna, gli avevamo cucinato poco di garri, di bici, di fainé, di tutti i manieri. La faceva Giuseppe, il cognato, perché gliel'aveva insegnato lo zio che lavorava da quello di via Sasso, capito? Di via Usai. Lavorava lì e l'aveva insegnato a Giuseppe come si faceva la fainé. Ma sia i sapani, ma una ragazza fatta il gruppo a legna e guarda, usciva spettacolare in tutte le maniere, la pazia con la ziota, con la schizza, in tanti maniere la pazia. Quando il forno fatto c'è ancora più buona esce, ma infatti io me lo voglio prendere. Ci sono questi forni piccoli, ci sono quasi un bruciatore a gas hanno. Io me lo dico, ma che cosa? Mi muovo la bombola e... Cazzo, mi faccio la pizza, mi faccio il pane, mi butto tutto. 300 euro ci vuole, adesso io non... Purtroppo... Non so, potrà fare niente, quindi... Non posso comprare nulla, però qui là me lo prendo. Mi faccio tutto in casa, la pizza, oh, che cosa fai a ordinarla? Prepara l'impasto da manzano, e la sera esci un prodotto, ma con guarda, scusa. Sì, io credo, quando ti lavai tu poi lo sai cosa avevi messo in mezzo, ed è scivona, invece quando la compareggi io mi chiedo di no che vicino la pazia buona, però non lo so se è aperto ancora, perché qua mia moglie non si fida andare a comprarla, perché deve attraversare tutto via San Donato, e all'uscita di via San Donato, quello lì. Faceva buona col forno a legna lì, e anche raggio digitale veramente buona usciva, come aveva dichiarato Harry Benzino. Ma vabbè, vuoi dirmi la vostra in casa, già usciva una roba stessa, anzi forse ci buru di buona, non poteva più di lo so, però boh, a me era tagliata più maniata, non mi ha fatto nulla, sai cosa vuol dire, non mi ha fatto nulla. Invece il video da bici in bagno, ma è tutta la notte andando, però... Sì, molte volte surgenano un rimpasto, quello che gli avanza, capito? Ed è una porcheria, non è come quando la fai fresca, tu. No, vabbè, l'impasto ci può stare, magari hai impasto dall'indomani più ribugiato, lo fai, lo mischi, lo fai girare, cazzo, è ancora più buona, perché c'è l'altro più riposato, quindi lo... riposa anche quello là tutto insieme, è ancora più buona poi. E ci sta, ci può stare. Però, cavolo, però sicuramente è l'olio che usano proprio. Ma io vedi, ma io ti trattano due semini, tu non te la vedi nel marco. Ehi, io gli ho detto sì, mi usa, allora l'olio d'oliva ti credi che ti mettano? Se poni lo zucchero d'oliva e scivona. Esci. Anch'io ho provato, l'ho provato anche in pasticceria e mi è uscita una bomba. A me. Mi è uscita la bomba, vero, ma io avevo buttato lo zucchero d'oliva, vero? E poi chi sta giusto, buono, io zucchero d'oliva e vedrà e ti scivona, vero? Già guidato lo zucchero d'oliva. Infatti io te l'ho detto quello lì per quel motivo, perché lo sapevo che ci vuole olio buono per uscire buona la fainé. No, non lo so, già è così già. Olio di oliva buono, che ne fai la fainé? Io so una cosa, la fainé è una... devi cucinare con l'ozzo, se no non è buona. Ma che ti si attacca tutta la dita. Cuccica. Invece lo tu arrivano, è buono e bocca che condi un bello tu arriva, no? Lo spazio è tutto nella teglia e da voi si buono l'impaccio. E mi dico per lui. Appunto, io ho notato anche che quando vai al basso lo devi girare un po' con corbucciare e dare un po' su un campo di triola, cioè ho messo un bel po' di cipolla che ci dà quella più buona. Quando tu poni nello coso, cioè devi continuare a fare all'ozzo. E quello è il segreto, che io l'ho già capito come funziona. Per uscire croccante è buona. Linfa nuova in una spagnazione. Io ce l'ho a gas lo stesso, la cucina, il forno, no? Sono stati vinti da Barcellona. E altro lo metto lì, ma io ho già cucinato i mojiti in chivi. Di tutto. A che manna la mia? Ma c'è un torro, un bel manno. No, il numero è minore. Ci sta la teglia giusta giusta, quella piccola ci sta. Però mi voglio prendere quella cagnata, mi voglio prendere proprio quella per fare queste cose qua. Dice che esce ancora più buona, non si sa. Ehi, ragazzi, è un dirabucchi una teglia così. E tutto. Guarda, c'è troppa casa la compri. Riparati 60 euro. Ma chi ha Virani che si teglia così? Tanto non Virani, che si fa andare in Monti, a Montedignoso. Ma te lo prende proprio. Ehi, da Mondini tu sei di te. Stesso tempo. Centro casa, non sai dove. Ehi, Mondini è chi su? Che le pressioni. Non le conosco, io conosco. Chi su fare andare a mare in Monte mie, Montedignoso, lo sai. E chi per Virani tutti li tegli? No, io preferisco il blu. Se è di mio è meglio una minore. Roba di zocco esce. Costano parecchio le teglie così proprio fatte per quella cosa, costano un bel, ma sono così sicuro che se più mi sa teglie esce ancora meglio. Sono uguale, esce il grande schermo, ti dura di più quella, riuscire a dirlo, ma credo che giustamente ti dura di più quella tagnata, quella per fare, perché per uso professionale, infatti te la fanno pagare un sacco di soldi, però anche se la metti nelle teglie normali esce buona lo stesso. Lo so, e il forno, più che altro ci vuole il forno giusto, però non ne posso più, chi deve come rimane più un manno, rimane, quindi si fa del calore. È uscita, però non è uscita così buona come dici da gruppo ragazzo. Mi dispiace, ma è tutto un altro mondo. E a chi alza di più, gruppo ragazzo, e alza di più, invece il suo elettrico va al limite, è compreso. Più di soltanto non alza. Invece chi da più vai andare più caldo. Ma devi stare pure aperto un minuto lì. Cazzo, se no ti si brucia sotto me. A 200 lo metti il forno a gas e tu sei tranquillo. Quando è salito tu prendi il gas e ti muovi la fai nel 30. E da voi quando mi raccavi e logicamente era di vent'anni. Rispetto a quelle di ieri. Quello che ho io è maledetto, perché rimane piccolo, rimane. Ma passa un caldo, io devo stare attento, devo stare con le cose. Scalda che è una cosa paurosa. Ma scalda vero me, perché poi c'è un sistema di coso che passa anche il caldo sopra, passa. Ma scalda maledettamente quel forno. La devi dintare, io burro là dentro quando un tratto romeo, come ti dintavo a Garri, Mattessi, devi, ogni tanto devi guardare, no, a che punto è la cottura, se no bruci tutto. Ma esatto, uso quello con l'agasso, se no da ogni bollo con l'agasso, anche comunicamente io non ne pago bombola, io la tasso breve, io la vengo anche. Non me ne parlo neanche di una mezzo piena, che molte volte non la buscano. A sto sopra me la carica di una stamane mi ha caricato due, quindi no, non pago gas, quindi a me mi conviene usare molto il forno a gas. Perché tu non lo paghi, giustamente. Emozione, iniziamo come sempre dopo a fare i tuoi. Vabbè, grazie, TG1, ciao. No, me ne e vado. E adesso c'è 5 minuti con Bruno Vetti. Farmi l'iniezione, ci sentiamo alle prossime, dai. Ehi, a KK. Ecco perché il pagato un gasso. Ah, di Nanni. Già non sa lui, l'unica cosa è tutto. Siamo rimasti nei rapporti e lui lo sa, sa, già sa tutto, non ti preoccupare. Ok, ciao, ci sentiamo, grazie alla chiacchierata. Ciao, ciao. Ciao, ciao.